Pick up l'Aio Matto per Firenze Rima, insieme al Tiezo da Chilo Produzioni. 200008. Ed io ho mille motivi. Ho mille motivi. Sono es che vive, prima o poi boccheremo a qualche loro giochetto, perché coi soldi sei meglio. Firenze è un laboratorio, ogni giorno è un test, ogni giorno di lavoro non fo abbastanza cash per guardare al giorno nuovo e pigio il tasto es. Sono al punto di partenza senza che dipenda da me. Nuovo avverto i sintomi, il giorno sogno ad occhi aperti, bro. La notte invece è solo incubi, no, no. Rimedi per lo smogo, alternative alla tranvia, visto che ho risolvo ma che cazzi mia. Firenze, F di fobia, quando sopra un cielo nero, F come frenesia, perché tempo per te stesso ne rimane sempre meno. Yo, resto in preda all'apatia, chiuso in casa mentre tremo. So per certo che non è questa la mia indole, ma al 100% mi sto vivendo questa sindrome. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, ma in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille motivi per andare via. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, e in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille motivi anche per rimanere qui. Firenze cartolina, figlia d'arte fiorentina. Firenze come vita mondana con gli happy hour. Firenze che ti invita dentro i club e di locali, con le facce più stupite dei turisti americani. Tu guardala negli occhi e dimmi a cosa sta pensando. Il mondo sta cambiando ma Firenze sta strillando. Firenze come piglia, gli occhi lucidi come biglia. Siamo al centro della city ma lontani mille miglia. Torna buoni, fatta cuore insieme a Gucci e Prada. Ma ti porto di sta city solo voci della strada. Rifrei di Campomarte, Gavinana e Coverciana, insieme a Novoli ed il centro Santa Croce e San Frediano. Potresti farti un giro nei quartieri di sta city, che di arte non c'è un cazzo e porta solo i nostri nomi. E intanto guardo in alto e trovo sempre il cupolone, e mi ricordo che sta vita qua a Firenze uno squallore. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, ma in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille motivi per andare via. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, e in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille motivi anche per rimanere qui. Ho Firenze tutto intorno, fumo denso sul mio volto. Un altro giorno sta passando e resta un giorno come un altro. Firenze che ti cambia perché il mondo sta cambiando. Cambio amore, un'altra foto, un altro tempo sullo sfondo. Io da grande con mia moglie, poi Firenze tutto intorno e mentre guardo Firenze un altro giorno, un altro mese, un altro anno. Passeggio per le strade e sento la mia storia intorno. La mia firma è su di un muro ed ha segnato il mio percorso. Firenze mille vite, Firenze non si spiega da un sorriso che ti uccide. Firenze le sue chiese, la sua gente, il suo passato. Firenze un giorno muore ma quel giorno è trapassato. Vedo il Duomo da lontano e la mia vita è indifferita. Ricordo di ogni foto che ha segnato una ferita e sullo sfondo Firenze è tutto intorno. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, ma in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille motivi per andare via. Nel bene nel male, io qui ci sono nato, e in fondo questo posto a me che cosa m'ha dato? Se guardo dritto in faccia la realtà capisco che ho mille